L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, lo spazio che Radio 24 settimanalmente dedica all'Europa in collaborazione con Euronet. Cerchiamo di raccontarvi un'altra Europa attraverso le storie, attraverso le persone, ma non solo, vogliamo offrirvi altre sfaccettature. Oggi parliamo di Europa partendo da Carrara. Siamo in Italia, dove si sta tenendo un festival molto importante con Vivere e Carrara Festival, un festival che mette il confronto europeo e una riflessione sul futuro dell'Europa al centro, e tanti nomi, tanti pensieri, anche tanti spettacoli, perché la cultura europea passa anche attraverso l'arte. Tra pochi minuti ci sarà un intervento del professor Giulio Giorello, il caso irlandese, la tolleranza come via alla coesistenza civile, e Giulio Giorello è proprio qua con noi. Ciao Giulio, buon sabato. Ciao Tavia, tutto bene? Buon sabato anche a te. Buon sabato, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon sabato a tutti i tuoi radioascoltatori. Giulio, prima di avere un'anticipazione di quello di cui parlerai a Convivere, questa settimana si è aperta con le parole del Presidente della Commissione Europea Barroso, che ha detto niente razzismo e xenofobia nell'Europa unita. Non ha mai citato i Rom, però sicuramente è quello il pretesto, il giusto pretesto per rilanciare questo forte richiamo all'Europa aperta verso le minoranze. Qual è la tua riflessione su queste parole e su questo stato dell'Unione? Ma io direi che le parole di Barroso giungono molto opportune, perché il caso dei Rom in Francia, e non solo, è soltanto uno dei tanti casi di intolleranza, razzismo e xenofobia mescolati insieme. In molte situazioni, come penso anche nel nostro stesso paese, il Rom, ma prima c'era il magrebino, prima c'era il nero, eccetera, erano usati come capri espiatori di paure e di insicurezze locali che sono probabilmente motivate da ragioni reali, non certo direi totalmente dagli stranieri, tra virgolette, ma lo straniero è un nemico con cui è facile riversare appunto la paura e l'intolleranza, che sono due pessimi materiali di costruzione politica. Le parole di Barroso vengono a dirci che è bene cambiare rotta. Qui bisogna andare a leggersi proprio i grandi che hanno fatto i conti con la figura, tra virgolette, dello straniero, e hanno capito che lo straniero può essere un'occasione, una ricchezza, e non un elemento di paura. Prendiamo un esempio, visto che ne ho parlato anche al Parolario di Lecco, che è un festival letterario. Prendi l'esempio di Joyce, in cui quello che è lo straniero a Dublino, Leopold Bloom, che è un ebreo di origine ungherese, per di più mal visto perché prima dall'ebraismo è passato al protestantesimo, poi dai protestanti cattolici, no, forse per ragioni opportunistiche, però ha il coraggio di sfidare i ciclopi, cioè quelli che vedono con un occhio solo, i maniaci della purezza di razza e di lingua, appunto con la sua esperienza di cosmopolita. E in realtà Joyce ci mostra che la purezza dell'origine è solo un mito, e talvolta un mito pernicioso. Non c'è purezza di politica, non c'è purezza di lingua, non c'è purezza di razza, insomma. Già questo ci porta sul caso irlandese, che è un caso estremamente complesso, dove non c'è un'origine unica del popolo irlandese, ma un insieme di correnti mescolate l'una con l'altra, dalle antiche radici gaeliche, che sono mitiche, sono leggendarie, anche alla presenza di coraggiose, attive minoranze protestanti, che più volte difeso le libertà civili. Tu, nel caso irlandese, di cui parlerai far pochissimo a Convivere, metti la tolleranza al centro di questa coesistenza civile. Che cosa intendi per tolleranza? Qual è la tolleranza che può essere anche imitata o presa da esempio per altre situazioni simili? Nella fine del Settecento, sulla base del grande risveglio dell'illuminismo, in particolare guardando l'esperienza americana e i diritti dell'uomo di Tom Paine, di Thomas Paine, alcuni intellettuali irlandesi di diversa confessione religiosa si batterono perché i cattolici non venissero discriminati dal governo inglese, sì. E questa lotta alla discriminazione doveva essere la premessa per un patto più generale tra le differenti denomination o tradizioni del paese per la costruzione di un'Irlanda veramente unita, possibilmente indipendente dal gioco economico e politico dell'isola vicina, e magari alla fine che prendesse la forma di una libera repubblica come quella appunto teorizzata da Machiavelli da noi, oppure da anche altri grandi pensatori politici dell'età moderna. L'Irlanda del Nord di oggi può essere un faro, è un esempio di convivenza raggiunta? La convivenza in Irlanda del Nord è stata raggiunta attraverso una lunga lotta di carattere rivoluzionario condotta dai nazionalisti irlandesi, in particolare dai cosiddetti repubblicani, nel quale ad un certo punto, io credo con molto senso della responsabilità, slittarono dalla lotta armata pura e semplice a forme di, come dire, di convivenza civile diverse. Vorrei ricordare che i repubblicani irlandesi non hanno lottato per dividere il paese, ma per unirlo, per cioè tornare a un'Irlanda di 32 contee, 32 quante dovevano essere nella struttura originaria del paese, insomma. E quindi la loro è stata un'azione che riprende l'ideale che dicevo prima della fine del Settecento degli irlandesi uniti dagli interessi politici, dagli interessi economici, dal godere liberamente delle loro diverse forme di vita nel rispetto, uniti anche gli uni degli altri, quindi anche nel rispetto delle due grandi, come dire, denominazioni religiose, cattolici da una parte e protestanti dagli altri. Poi protestanti vuol dire tante cose, vediamoci, certo. Chiesa di Stato, dissenzienti, eccetera. Poi ci sono anche gli ebrei e ci sono anche i Rom, tra l'altro in Irlanda, perché la grande tradizione degli zingari o calderai o ironmongers, se vogliamo dirla in inglese, è una tradizione che è presente nella cultura irlandese. E proprio i repubblicani nel nord più volte difesero i Rom o gli zingari o gli ironmongers, come vuoi chiamare, dall'ostilità di alcune frange della popolazione locale. Questo è un elemento di grande civiltà. Giulio, ti ringraziamo davvero, ti dobbiamo lasciare perché ti stanno aspettando. Un'ultima domanda prima dei saluti: tu sei filosofo della scienza, come mai questo amore per il caso irlandese, per l'Irlanda? Ma questo viene da due fonti: la lettura di Joyce da ragazzo, appena mi gettai in libreria, appena seppi della bella traduzione di Giulio De Angelis, sì, pubblicata dalla grande Medusa mondadoriana, Mondadori di allora, uh-huh. E nello stesso tempo l'eroismo dei repubblicani irlandesi era ben visto nella mia famiglia, da mio padre e da altri componenti della mia famiglia, perché vedevo una tradizione di lotta democratica che non si schiacciava però, diciamo così, sulle posizioni inglesi. Ho capito. Grazie davvero Giulio, buon sabato e buon intervento. Grazie mille carissimo, anche a te, e ancora un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori. Ciao. Adesso un Europost-it e poi le informazioni per chi sta viaggiando. Europost-it. Convivere, pronti al gran finale. Termina domani, con un concerto molto speciale, la 3 giorni di festival dedicato all'integrazione europea in corso a Carrara. Un flauto, una cornamusa e una chitarra, e affascinanti melodie celtiche. A suonarle però ci sono solo musicisti italiani. Questa l'eccezionalità dei Birkin Tree, formazione italiana di musica celtica apprezzatissima anche dagli irlandesi. Si esibiranno domani pomeriggio alle 17.30 al Festival Convivere a Carrara. L'altra Europa. L'altra Europa, l'Europa raccontata attraverso le storie delle persone. Il bello di questo programma è anche che, insomma, gli interlocutori li possiamo trovare, per esempio, via Facebook, cosa che abbiamo fatto per parlare del prossimo argomento. E un titolo uscito sulla stampa qualche giorno fa diceva: è la solitudine la vera sindrome di Stoccolma. Pensate, la Svezia al record mondiale dei single sono il 60% della popolazione, sottotitolo che dice la famiglia non c'è più, l'ha sostituita internet, quindi una nazione dove sono tantissimi i single, dove però c'è sempre più solitudine, questo è quello che denunciano i giovani, è una sorta di andare a cercare compagnia, andarsi a rifugiare in internet. Ho quindi chiesto su Facebook se c'era qualche svedese parlante italiano che aveva voglia di raccontarci la propria esperienza e ho trovato Peter, un economista di 26 anni che vive a Stoccolma. Ciao Peter! Ciao! Ciao. Allora, tu è vero, ci sono così tanti single in Svezia? Direi che sia vero, sì. Ci sono tanti singoli qui. Uh-huh. E tu sei single, per esempio? No, io sono fidanzato. Ah, ok, quindi insomma tu sei fuori statistica, diciamo. Sì, okay. Per fortuna sì. Uh-huh. Quindi tante persone che scelgono di vivere sole, spesso è una scelta, altre volte si è costretti. Credo di sì, perché si può lasciare il marito... la moglie abbastanza facilmente qui, che non è una cosa di religione o qualcosa del genere, che se non c'è amore si lascia il partner e così diventano tanti singoli, credo io. Mm-hmm. Che sia così. Ecco, ed è vero che essere single comunque è sinonimo di solitudine, tu questa cosa la noti per esempio nei tuoi amici o nelle persone che frequenti? No, non credo, perché se un mio amico è single, esce tanto con degli amici o va a prendere una bevuta o qualcos'altro, così non diventano soli proprio. Ecco, c'è una psicologa che intervistata, che proprio al riguardo dice che tantissimi cercano poi cercano un aiuto nell'alcol, quindi c'è proprio questa tendenza al ritrovarsi insieme a bere e poi ognuno però torna nella propria solitudine. No, può essere vero che durante il weekend si esce più spesso e quindi si beve quando si esce così bevi di più rispetto a se avessi un fidanzato. Però non so, non vedo un problema però che ci sono loro che bevono troppo perché sono singoli, no? Spero di no almeno. Tra l'altro veramente questo articolo sempre dice che sempre più persone si rivolgono per esempio alle radio o alle televisioni per denunciare il proprio disagio, per dire da soli stiamo male. Questa cosa tu invece non la noti? No, non l'ho notato infatti, però i miei amici sono sposati o hanno un fidanzato che... E i miei amici non sono singoli, infatti, quindi... Insomma, abbiamo trovato il 40% degli svedesi. Mi dispiace. No, insomma, ci piaceva capire il polso della situazione. Ed è vero però che ci sono tantissimi trentenni che frequentano la maggior parte delle ore libere, del tempo libero su internet? Ma sì, è un fenomeno che è abbastanza normale qui, almeno a Stoccolma, non so, in Svezia, però qui sì. Ho qualche collega che va a cercare persone su internet e qui è visto come una cosa normale, che non dici, ah, strano, dici, ah, hai trovato qualcuno? Che, sì, tante persone lo fanno, se sì, è diventato normale. Peter, ma tu conosci l'italiano come mai? Ma io ho vissuto 6 mesi a Prato studiando economia. Ti manca l'Italia? Un pochino sì, per certe cose sì, poi ci sono dei lati negativi pure, ma mi manca... la caldezza, diciamo, delle persone, il cibo. Insomma, un po' il calore insomma, forse in Italia è più facile socializzare che in Svezia, questo dicono le statistiche, però non è il tuo caso, visto che sei felicemente fidanzato. Sì, infatti, è vero che il caldo c'è più in Italia, lo dico la verità. È la solitudine, la vera sindrome di Stoccolma, questo diceva la stampa qualche giorno fa. Peter oggi ci ha raccontato un'altra realtà che lui vive quotidianamente e nella capitale svedese. Ciao Peter, grazie davvero, buon sabato. Grazie, buon sabato anche a te. Europost-it. Convention a emissioni zero. Sono arrivate già 150 prenotazioni al Convention Center di Dublino, dopo pochi giorni dall'apertura. Uno spazio eccezionale perché è il primo centro congressi al mondo a non produrre anidride carbonica. Un vero gioiello ecologico pronto a ospitare eventi con 8.000 ospiti e delegazioni internazionali. E il governo irlandese spera che il Convention Center di Dublino sia una vera attrazione turistica per le aziende di tutto il mondo. E continuiamo a raccontare l'Europa, un'Europa che insomma sembra lontana nel tempo, quella che andremo a conoscere fra pochissimo. E lo facciamo insieme a Irene Suave, una giornalista, una collega che ha partecipato, ha vinto a Passione Reporter, una delle iniziative del progetto Va Bene dell'Istituto Goethe italiano, che in collaborazione all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino hanno organizzato un concorso per raccontare la Germania, frammenti particolari di Germania, e Irene ha fatto un reportage bellissimo su questi artigiani, su questi apprendisti. Ciao Irene, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, ciao. Sì, io ho pensato di fare un reportage sui Wandergesellen, si chiamano, sono questi apprendisti dei lavori manuali, quindi carpentieri, falegnami, tagliapietre, eccetera, perché la prima volta che sono stata in Germania ero rimasta incuriosita da un gruppo di ragazzi che facevano autostop vestiti come dei mormoni. Okay. Meno, cioè con questi cappellacci a tesa larga, neri, un completo in velluto nero, una camicia sbuffo, una cravatta che mi sembrava particolare e soprattutto un fagotto sulle spalle tenuto con un bastone, come appunto un viandante. Esatto. E allora mi ero fermata a chiedere loro che cosa facessero vestiti così, eccetera, e loro mi hanno spiegato che è una forma di apprendistato tradizionale che in Germania esiste ancora, forse l'unico paese in Europa in cui esiste ancora, perché c'è qualcosa del genere in Francia che si chiama compagnonnage e nei paesi scandinavi, però è una tradizione veramente tedesca. Si tratta di passare 3 anni lontani da casa, banditi dalla propria città natale in un raggio di almeno 80 chilometri in cui non si può rientrare per nessuna ragione, se non per lutti gravi, eccetera, e viaggiando in giro per il mondo a lavorare, soltanto muovendosi solo in autostop o a piedi, cioè assolutamente niente treni, non si possono possedere mezzi di trasporto proprio, niente autobus, l'aereo è tollerato perché comunque lo spirito della cosa è quello di girare il mondo e imparare varie tecniche più diverse possibile, però appunto il grosso degli spostamenti lo si fa a piedi. Ma o in autostop. Irene, in effetti quella che stai tratteggiando è davvero un'altra Europa, nel senso, queste sono persone che scelgono un mestiere, scelgono una professione e per apprendere le basi di questa professione dedicano 3 anni della propria vita a questo viaggio, a questa sorta di pellegrinaggio professionale. Sì, è proprio un pellegrinaggio professionale, perché loro per mettersi in viaggio devono aver concluso il primo apprendistato, quindi devono già saperlo un mestiere, perché poi dovranno campare di quello, e girano per 3 anni proprio per perfezionarlo, per vedere come lo si fa in altre parti del mondo, per imparare nuove tecniche, eccetera. E infatti loro durante questi 3 anni sono tenuti a vivere solo del proprio lavoro e si presentano, cioè proprio di persona, in un cantiere piuttosto che in un'officina o in una falegnameria, e offrono i propri servizi, no? Che a volte vengono ripagati anche solo con vitto e alloggio, più spesso invece vengono pagati. Tra di loro formano una rete, perché loro non partono all'avventura da soli, ma sono affiliati a delle fratellanze, si chiamano così, tra di loro formano una rete in cui un po' si sa dove andare a cercare un lavoro, da chi ti può insegnare, da vecchi membri della fratellanza che adesso insegnano i nuovi e così via. Quindi sì, è proprio una cosa professionale. Con simboli, con dei riti, insomma, tra la setta, sì. e anche l'aspetto folcloristico credo sia ben presente, però diventa proprio una scelta di vita. Eh sì, è una scelta di vita perché ha delle regole fortissime, perché non è che perché tu parti da solo e poi rispondi solo a te stesso. Intanto appunto tu sei membro di una gilda e a loro rispondi del tuo comportamento in modo costante, perché ti devi presentare comunque a delle riunioni mensili che ci sono, anche se non vai a tutte, però nelle varie città tedesche ci sono delle riunioni e si rimane in contatto con gli altri membri e proprio gli altri membri sono quelli che controllano come ti comporti. Ad esempio, se tu indossando l'uniforme compi un reato o ti comporti in modo aggressivo o anche solo scortese con chi magari ti ha ospitato o ti ha dato un passaggio in macchina, ci sono delle punizioni. La più grave, per esempio, è quella dello strappo dell'orecchino, perché tutti i membri della tutti questi ragazzi indossano un orecchino che gli è stato messo il primo giorno di cammino, inchiodato con chiodo e martello dai compagni più anziani. Irene, un'ultima domanda: la professione la imparano? Sì, la imparano, okay. Perché girano tutto il mondo, vanno in Australia, vanno nei paesi più poveri a costruire impianti idraulici, a costruire case. La imparano il come, perché loro stessi raccontano di essere molto contenti di come questo si ripercuote sulla loro formazione, anche se molti poi cambiano del tutto strada, perché girando per il mondo vedono scoprono che magari non sapevano e quindi si buttano in tutt'altro campo. Chi magari faceva il carpentiere diventa assistente sociale, chi magari faceva il tagliapietre decide di mettersi a studiare da educatore, ecco, molti vanno nel sociale. Irene, complimenti davvero per il tuo reportage che è stato pubblicato su 7 del Corriere della Sera qualche settimana fa, ma si trova facilmente in rete, basta cercarlo su Google. Irene, anche tu hai scelto di partire 3 anni per imparare il mestiere di giornalista? No, purtroppo sto qua, anzi per fortuna sto qua e finora sono contenta perché a differenza di quella è una professione che secondo me si fa molto bene stando molto in un posto e cercando di capire in una città e cercando di capire come questa città funziona, specie se come me fai la cronaca, quindi okay. In realtà no, io sto qui. Grazie davvero, buon sabato, ciao Irene. L'altra Europa. L'altra Europa, storie, persone e notizie dall'Europa che anche voi ci potete segnalare all'indirizzo l'altraeuropa@radio24.it. Ci piace quando anche gli ascoltatori diventano protagonisti, come ha fatto Marco, che è stato un nostro ospite qualche mese fa. Ci ha scritto dicendo: beh, io sono a Copenaghen per qualche settimana, ho qualche notizia interessante, se volete le condivido con voi. E noi lo abbiamo invitato e diamo il benvenuto a Marco Germinario, ideatore ed organizzatore del Festival Ragnarok, il festival nordico a Milano. Ciao Marco, buon sabato. Buongiorno a tutti. Ciao. Festival di cui abbiamo parlato facendo una puntata qui con musica live anche dell'altra Europa, ma stai già lavorando alla prossima edizione? Sto lavorando alla seconda parte dell'edizione di quest'anno. E quando sarà e cosa accadrà? Comincerà a ottobre, il 26 ottobre, ci sarà una conferenza a Palazzo Marino chiamata Culture Futures. In sostanza è un brainstorming, diciamo, tra i più grandi architetti, designer, artisti nordici, discuteranno il modo di rapportare la propria arte al nuovo millennio ambientale, quindi architettura, ambiente, design, ambiente, e incontreranno i rispettivi italiani. Fantastico, insomma, sicuramente torneremo sopra l'argomento perché ci interessa. Invece adesso sei a Copenaghen, e dove abbiamo anche avuto un inviato sul posto. In questi mesi è possibile sostituirsi alla sirenetta, perché la sirenetta è all'Expo di Shanghai. Ci hai provato anche tu a metterti in posa? Sì, proprio all'inizio, i primi anni che ero qua. Ok, quindi in questi giorni invece dove si può prendere il posto della sirenetta hai evitato. E Marco, quali notizie invece hai trovato per noi? Beh, ho pensato che la Danimarca è anche famosa per le favole, no? Per lo scrittore Hans Christian Andersen, quindi potevo cominciare con una favola, un aneddoto che può sembrare una favola per alcuni, altri no, e si tratta di questo scienziato, di questo grandissimo scienziato danese, si chiama Holger Nielsen, che ha elaborato un modello fisico-matematico che dice in sostanza che Dio non vuole che venga scoperto il bosone di Higgs nel famoso esperimento del CERN che si sta facendo quest'anno. Quindi ha ipotizzato l'esistenza di questo di questa essenza che dice ogni volta che si tenta di scoprirlo, in sostanza che viene scoperto, si torna nel tempo e succedono dei danni. Ecco, è importante spiegare, il bosone di Higgs, se viene scoperto questo bosone di Higgs, è la particella che spiegherebbe l'origine della massa dell'universo. Per questo è spiegata, per questo è chiamata la particella di Dio. Ho capito, ma questo scienziato, che io non conosco, ignoranza mia, ha credibilità a seguito lì in Danimarca? Sì, tra l'altro è una credibilità a livello mondiale, perché è uno dei padri fondatori della teoria delle stringhe, è nel comitato del premio Nobel, quindi alla fine è un grandissimo scienziato. Mm-hmm. Lui in sostanza nel CERN è stato costruito l'LHC, perché per scoprire una particella con così alta energia è necessario costruire un acceleratore di particella di 27 km di diametro, sì, per scontrare le particelle alla velocità della luce, e da qua vengono misurati ed eventualmente cercato di scoprire questa particella. Però nell'ultimo anno sono successi parecchi incidenti, anche un po' strani. Sì, infatti abbiamo letto, quindi lui dà la colpa a Dio e lo dimostra tramite un algoritmo praticamente. Praticamente sì, lui dice che esiste, se non questo Dio, questa essenza che ha un goal, ha un obiettivo. È come un amministratore delegato che deve minimizzare il proprio budget. La creazione della particella di X per lui è dannosa al suo budget. Quindi lui è un'essenza che può vedere anche al futuro e quindi cerca di tenere questo esperimento, questa scoperta, cerca di impedirla il più possibile. Ok, ma insomma sicuramente in effetti Hans Christian Andersen avrebbe preso spunto per scrivere una favola, sicuramente. Altra notizia che ha catturato la tua attenzione? Beh, l'altra notizia, una notizia veloce, insomma, c'è di questo razzo di cui si è parlato molto, che doveva appunto molto economico, doveva andare nello spazio, fatto da due danesi, sono Peter Madsen e Christian Van Bexel, non ha funzionato per ora e quindi rifaranno il tentativo a giugno. Si trattava di un progetto molto incredibilmente economico e incredibilmente di alta qualità, però non sono ancora riusciti a farlo decollare, se ne parlerà in giugno. Okay. Era stato talmente economico che avevano, si dice che avevano usato addirittura un asciugacapelli per tenere calda la valvola che si occupava dell'ossigeno liquido calda, e quindi però questo asciugacapelli si è rotto in sostanza, quindi gli consigliamo magari di comprare uno che costi un po' più di più. Ecco, insomma, questi viaggi intergalattici low cost in effetti devono ancora essere migliorati. Comunque vedo che insomma la comunità scientifica danese è abbastanza bizzarra, ecco, questo almeno si percepisce dalle notizie che tu hai trovato. Un'ultima segnalazione? Sì, un'ultima segnalazione è che c'è una, sempre di nuovo tornando al discorso di queste favole, di questi paesi, insomma, delle favole. Negli anni 70, in un'area di Copenaghen, è stata fondata una società completamente autogestita, completamente anarchica nel senso buono. Ci sono stati degli hippies, dei figli dei fiori, che hanno occupato questo territorio, che tra l'altro era del Ministero della Difesa, per fondare una loro società completamente libera. Quindi si sono costruite le loro case, si sono costruite le loro scuole, prendono le decisioni per comune accordo, neanche per votazione, e hanno creato questa famosissima Cristiania, che è stata venduta, anche è stata sostenuta dal governo danese per moltissimi anni, per 30 anni, come esperimento sociologico. In sostanza. Quindi una città o un quartiere o un pezzo di città che ancora esiste? Che ancora esiste. Adesso è in grande difficoltà perché ci sono moltissime pressioni, siccome è una zona stupenda, vorrebbero costruire, buttarlo giù, costruire insomma moltissime condomini, ville, e così via, però insomma ci sono anche, è una forte anche identità dei danesi, insomma, quindi hanno questo contrasto un po' con il governo di destra che deve permettere l'esistenza di questo posto, e però anche una forte pressione, ecco. Questa zona anche è stata molto famosa perché per le biciclette, le famosissime biciclette di Cristiania, per proprio la zona bellissima in cui si possono addirittura osservare case a forma di banana, e perché si potevano comprare delle droghe leggere, tipo marijuana, insomma, così via, in cui il governo chiudeva un occhio in sostanza, e adesso non intende più farlo, ecco. Quindi come ospite d'eccezione ho Sirkeline qui con me, è una ragazza danese che ha studiato arte a Milano ed adesso è tornata a vivere a Cristiana, che magari appunto ci può dare un'impressione più colorata di questo posto. Fantastico, insomma abbiamo quindi un'esperienza raccontata in diretta. Ciao Sirkeline, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, grazie mille. Allora, Marco ci ha raccontato, ci ha fotografato questo quartiere di Copenaghen che si chiama Christiania, dove tu vivi. Facci capire bene, siete una comunità alternativa? È molto alternativa, sì. È una piccola città nella città, si può chiamarlo così. Cosa posso dire? È un posto unico sicuramente al mondo, con case colorate, fatto tutto di materiale... come si dice, di seconda mano. Sì, ok, di recupero e di seconda mano. Ma avete vostre regole? In un certo senso sì. Hanno una piccola comunità che hanno un cassa comune, hanno negozi dentro, hanno i caffè, hanno un asilo nido, hanno posti in quel genere. E le persone che vivono in Christiania lavorano anche per Christiania molto spesso. Le persone che vivono lì lavorano anche nella città fuori. Però tante persone fanno tanto per la Christiania stessa. Organizzano tanti eventi per i bambini, per gli adulti, concerti. Sono molto creativi. Ed è una città che si può visitare, ci sono anche turisti. Che... Certo, ma è aperto a tutto, è pubblica. È solo difficile andare lì a vivere. Specialmente adesso che c'è questi problemi con il governo. Un paio di anni fa hanno... dovuto chiudere una strada che viene chiamata Pusher Street, dove vendevano fumo, droghe leggere, che per l'altro sono più persone da fuori che vengono a vendere le loro droghe in questa piccola strada dentro Copenaghen. Comunque il governo, per non chiudere tutta la Christiania, hanno detto di chiudere questa strada qua. L'hanno fatto, però adesso che credo che è 2 anni fa che lo facevano, è riaperto, comunque è tutto ritornato come era prima. Però Christiania hanno in atto un processo con il governo e tra 1 anno o 2 ci sarà il processo e si vedrà cosa succederà poi, anche perché ci vivono più di 1000 persone in Christiania e non possono chiudere e buttare fuori tutti, anche perché è diventato una parte di Danimarca. Certo, ma tu sei nata in questa città? No, non sono nata. La mia sorella vive lì da 10 anni e per questo che io sono andata lì dopo che sono tornata da Italia. E poi così io ho incontrato un sacco di persone e io adesso vivo, sono ospite da un amico, proprio perché non puoi andare lì a vivere, non puoi avere un indirizzo e questo è perché hanno questo caos con il governo. Loro non vogliono che costruiscono, non possono diventare più grandi, non possono cambiare niente finché il processo è finito. Ecco, ma siete nel cuore dell'Europa, che senso ha vivere in una città, dentro a un'altra città, in una città che non esiste? È una provocazione o è un'esigenza? Credo che è andato un po' come una provocazione, come un tentativo di vivere in un modo diverso, più tranquilla, più autentico verso il vero essere, come si può dire. È un po' hippie, no? Tutti suonano la chitarra, siamo tutti sociali, tutti hanno rispetto verso tutti. Ci sono tutti i tipi lì, ci sono il perdente e l'uomo essenziato, se si può dire così. È un posto dove... tutti sono tollerati e questa c'è una grande tolleranza e credo che è la ragione per quale così tante persone piace stare lì, anche perché è una zona molto verde, c'è natura, c'è animali, c'è i fiori, e le case sono colorate, strani, storti, perciò è unico e credo che è proprio questo senso di appartenenza, di poter essere proprio se stessi. Si parla tanto di tolleranza, si parla tanto di integrazione nell'Europa unita. Tu pensi che qui nell'Europa unita dovrebbe guardare a un'esperienza come quella di Christiania? Non credo che si può prendere come esempio per il resto del mondo, proprio perché credo che una società come Christiania può essere solo in una piccola versione. È anche quella che la rende così speciale. Grazie a Sirkeline per averci raccontato la sua esperienza, un grazie a Marco Germinario, adesso un Europost-it e poi Strade in diretta. Europost-it. 2011, un anno di buone azioni. L'Unione Europea ha scelto il 2011 come anno europeo del volontariato. Obiettivo? Mostrare l'enorme apprezzamento per i milioni di volontari che tutti i giorni fanno la differenza. E ogni volontario ha una storia da raccontare. E proprio per dar voce alla straordinarietà di queste persone, l'Unione Europea lancia una campagna alla ricerca di volontari che facciano anche reporter. I 27 selezionati parteciperanno infatti ad una sorta di staffetta che farà il giro dei 27 stati membri e che partirà ufficialmente da Bruxelles il 6 dicembre 2010. Possono candidarsi tutti quelli che hanno esperienza nel campo del volontariato e un background giornalistico e televisivo. Le candidature sono aperte fino al 27 settembre sul sito European Year of Volunteering. L'altra Europa. L'Europa da conoscere, da scoprire anche attraverso la scuola. Un anno a studiare all'estero, solo un professore su tre dice di sì. Questo è un rapporto dell'associazione Intercultura che ha presentato pochi giorni fa. Di Intercultura abbiamo parlato anche noi, presentandovi Francesca, che tre settimane fa è partita per la Norvegia e ci aveva raccontato perché aveva scelto di fare il quarto anno delle scuole superiori in Norvegia, perché aveva scelto questa nazione e come si era preparata alla partenza. Le avevamo promesso che l'avremmo ricontattata per scoprire, per capire come era stato questo primo approccio, perché vive in un paesino lassù in questa nazione nordica, e oggi finalmente è qua con noi. Ciao Francesca. Buongiorno. Buongiorno, buon sabato a te. Hai già imparato, immagino, a dire buongiorno in norvegese? Sì, god dag. Perfetto, non posso ricambiare non conoscendo la lingua, scusami l'ignoranza. Allora, Francesca, è ripartita con tanti buoni propositi e avevi già imparato un po' studiacchiato la lingua e avevi avuto una corrispondenza con la famiglia che avevi già conosciuto su carta. E com'è stato il primo approccio? Ma devo dire che i genitori non c'erano, perché erano dall'altra parte del paese ad un cinquantesimo, e quindi ho incontrato soltanto le due sorelle più piccole al campo. Mm-hmm. E gli altri sono arrivati nel giro della serata, insomma, verso le 10 così, da Oslo. Ok, perché appunto i primi giorni li hai passati in un campo di conoscenza con gli altri ragazzi di Intercultura e poi ti sei trasferita nel paese che ti ospita, che ricordiamo il nome e dove si trova? È Elverum. Mm-hmm. Vicino a Amar, ce l'ho fatta, sì? Nell'Hedmark. Quindi... è una regione nell'interno della Norvegia, non tanto distante da Oslo. Ok, quindi un paese piccolo. Sì, è un paese, il paese di Elverum è di 20.000 anime, ma la frazione Hernes è molto più piccola. Ecco, e hai iniziato già anche a frequentare la scuola? Sì, ho iniziato il lunedì dopo l'arrivo a casa, sono dovuta andare a scuola e capire come funzionava. Ecco, Francesca, cosa succede? Una persona sceglie di cambiare vita per qualche mese, come hai fatto tu, e ti trovi catapultati in una realtà nuova e... la prima cosa che noti, quali sono i punti in comune, le somiglianze col tuo paese di origine, o sono le differenze che subito saltano all'occhio? Devo dire che fra le due cose è difficile scegliere. Sicuramente le somiglianze sono quelle che si notano già prima di partire nella presentazione del paese, perché è un paese europeo, quindi molto simile a tutti gli altri nell'Europa. Però quando si arriva qui forse sono le differenze che saltano più all'occhio, perché è proprio quando ti guardi intorno che vedi che è diverso. È tutto costruito in legno e ci sono animali un po' dappertutto, e quindi fa proprio un altro effetto. Quindi dalla Val di Susa alla Norvegia, insomma, questo è stato il tuo viaggio. E l'accoglienza scolastica? L'accoglienza scolastica devo dire che forse sarebbe stata più calorosa se fossi arrivata la prima settimana all'inizio della scuola. Invece io sono arrivata con una settimana di ritardo, per cui la cerimonia di apertura c'era già stata ed è stato difficile far notare che c'ero anch'io. Però dopodiché le cose erano già tutte predisposte, quindi mi sono inserita abbastanza bene. Ecco, ti senti diversa, ti senti la straniera del gruppo? Ma devo dire che mi sarei sentita così se non avessi notato che è pieno di immigrati, pienissimo da tutti i paesi del mondo e pieno anche di stranieri, anche solo qui con la famiglia per qualche anno. Ho scoperto che ci sono 5 famiglie italiane in questo paesino e quindi non è proprio come sentirsi gli unici stranieri nel posto. Ecco, prima hai citato l'Europa, che Europa si respira da lì? Un'Europa, devo dire, molto diversa da quella che sentiamo in Italia. Noi parliamo continuazione di Europa, l'Unione Europea, loro non fanno parte dell'Unione Europea, quindi tutta la parte politica non la sentono neppure. E per quanto riguarda il patto Schengen, invece, di cui fanno parte, si sente l'appartenenza perché è così facile avere i permessi. Quando ho firmato il permesso di residenza, ho segnato soltanto un anno di permanenza, ma c'era la parte dedicata a chi voleva rimanere anche per il resto della propria vita e te lo chiedono appena arrivi se vuoi restare. E in quanto italiana, qual è stata la prima domanda che ti hanno fatto? Come italiana, da che parte dell'Italia arrivo? Perché noi pensiamo sempre all'Italia così come un unico paese, ma in realtà è quasi due paesi diversi, per cui o tre o quattro, a seconda di quante sono le regioni che sono nella testa di chi non ci abita in Italia. E quindi magari qualcuno conosce soltanto Roma, qualcuno invece conosce anche qualche città del nord, Venezia, Trieste, però è difficile spiegare da dove si arriva. Francesca, pensi ancora in italiano o pensi già in norvegese? Pensare in norvegese è difficilissimo. Per buona parte della giornata penso in inglese, perché uso l'inglese per parlare con tutti dappertutto e tutti lo sanno parlare molto bene. Allora dai, dopo 3 settimane direi che insomma il giudizio è più che positivo, sei all'inizio di questa tua esperienza, ma vogliamo seguirti, quindi magari ogni tanto ci sentiamo così ci racconti come prosegue questa tua bella avventura. Va bene, grazie, buona giornata. Ciao, buon sabato Francesca, grazie a te. Europost-it. Viaggia in maniera intelligente e vivi meglio. Questo è lo slogan della Settimana Europea della Mobilità, che si terrà in tutto il continente dal 16 al 22 settembre. Viaggiare meglio vuol dire anche viaggiare leggero, preferendo spostamenti in bicicletta o a piedi. Così si inquina meno e ci si mantiene anche in forma. Un doppio e importante risultato. Tutte le iniziative dei diversi stati sono sul sito della Settimana Europea della Mobilità all'indirizzo mobilityweek.eu. E chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa parlando di stretta attualità. Domani, infatti, 12 settembre, si terrà in Turchia un referendum che potrebbe essere storico. Per capire bene i termini della questione abbiamo invitato il corrispondente del canale turco NTV, Luftula Gotash. Ciao Luftula. Ciao. Ciao, buon sabato. E allora, cosa accadrà domani in Turchia? Allora, praticamente 12 settembre è anniversario di golpe di Stato in Turchia, quel golpe di Stato che era stato fatto 1980. Sì. E per coincidenza, diciamo, nella stessa data, certamente, si era un referendum che c'ha a che fare con la Costituzione. Quindi una parte della Costituzione verrà cambiato se eventualmente elettori voteranno sì, se accetteranno questi cambiamenti. Allora, quali sono questi cambiamenti? Innanzitutto diciamo che questa Costituzione attuale ha origini proprio, diciamo, in quelle golpe dello Stato che è stata fatta dai militari in Turchia. Sì. Nell'anno 1980. I militari avevano preparato questa Costituzione, nel frattempo certamente sono stati cambiati, diciamo, alcuni articoli della Costituzione, però diciamo, nel referendum di questo 12 settembre, che per caso succederà questo referendum nella stessa data, uno dei cambiamenti che sarà è perché c'era un articolo in Costituzione che è tuttora in vigore. I militari che avevano effettuato quel golpe dello Stato sono improcessabili, questo era scritto nella Costituzione. Ad esempio questo articolo sarà cambiato, quindi saranno cioè, potrebbe, volendo, si può aprire la causa contro i militari che avevano fatto, diciamo, colpe dello Stato. Questo, certo, è semplicemente uno di questi cambiamenti. Quindi una riforma costituzionale che piacerebbe a Bruxelles, nel senso che sarebbe un ulteriore passo verso l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea? Secondo me sì, dal punto di vista, diciamo, dell'adesione, diciamo, della Turchia, diciamo, all'Unione Europea, è un passo avanti sicuramente, perché in Turchia dobbiamo dire che ci sono anche altri problemi. Per esempio, abbiamo avuto soprattutto negli ultimi anni sempre una specie di conflittualità fra Consiglio Superiore di Magistratura e il governo. Cioè, in alcuni casi Consiglio Superiore di Magistratura, si può dire che anche Corte Costituzionale hanno superato in un certo senso i loro limiti, nel senso che ad esempio il Parlamento normalmente in una democrazia normale dovrebbe avere naturalmente il potere di legislazione, legislatura, però in alcune decisioni della Corte Costituzionale abbiamo visto quasi una violazione di questo principio, nel senso che hanno tolto in un certo senso il potere legislativo delle Camere. Quindi in questa riforma ci sono anche un articolo che riguarda proprio alla riforma del Consiglio Superiore di Magistratura, che sarà più o meno come quello italiano, perché in Turchia normalmente, diciamo, era troppo restrittivo. Il premier Erdogan si è speso molto per questo referendum, insomma diventa anche una sorta di promozione o bocciatura del suo governo, vedremo quelli che saranno i risultati. La popolazione sente molto questo appuntamento? Allora, la popolazione praticamente possiamo dire che si sono, diciamo, divisi in tre alle vigilia di questo referendum. Allora, ci sono quelli che voteranno il sì, diranno di sì, probabilmente, certamente, cioè, simpatizzanti del partito di Erdogan tutti voteranno sì, poi ci sono magari alcuni partiti forse, diciamo, voteranno sì, però opposizione in generale voteranno di no. Poi ci sono magari le persone, un terzo gruppo, che non sono simpatizzanti di Erdogan, però malgrado questo voteranno sì, e questo gruppo normalmente, diciamo, definisce se stesso non basta ma sì, cioè, quindi diranno di sì, però in attesa che, diciamo, dopo questo referendum un'altra costituzione più democratica. Grazie davvero a Luftula Gotaş, corrispondente del canale televisivo NTV. Ciao e buon sabato. Finisce qua la puntata di oggi dell'Altra Europa. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli, che con me ha scritto il programma, ad Anita Panizza in redazione, a Fabio Cantadori alla parte tecnica. L'Altra Europa @radio24.it, se volete farvi vivi, radio24.it è il nostro sito da cui potete riascoltare il podcast. Ciao e buon sabato da Federico Taddia.